giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchissi. 1994. C'è un angolo di povertà nel continente africano in cui si vive nella guerra. La Somalia è consumata da un logorante scontro tra bande armate. In prima linea ci sono i militari italiani, inviati dall'ONU per mettere pace tra le fazioni. E ci sono i giornalisti, quelli che sono lì a documentare. I principali reporter del mondo, per il TG3 ci sono Ilaria Alpi e Miran Krovatin. Ma il loro cammino verso la verità si interrompe il 20 marzo del 1994. Ilaria e Miran vengono trucidati lungo una strada di Mogadiscio da un comando di somali. Un'esecuzione premeditata in piena regola o un agguato a scopo di rapina finito male? Quello che si conosce è solo un triste balletto di perizie che hanno avallato tesi contrastanti. La prima ipotesi, un'esecuzione, secondo il referto medico stilato poco dopo l'omicidio sulla nave militare Garibaldi, noto nel suo contenuto ma mai presentato in tribunale, è ritrovato solo oggi dalla commissione d'inchiesta Taormina. Seconda ipotesi, l'incidente. Lo sottolinea una superperizia, voluta nel 98 dal magistrato di Roma Franco Ionta. Un colpo sparato da lontano, forse in modo accidentale. Ma nel tempo è proseguito il corso della giustizia. Il somalo Ashri Omar Hassan resta oggi in carcere. Arrestato a Roma nel gennaio del 98, è stato assolto in primo grado, condannato all'ergastolo nel secondo grado e alla fine la sua pena è stata ridotta a 26 anni di carcere. Ma Hassan potrebbe non essere colpevole. Il dubbio viene dallo stesso Guido Calvi, legale dei genitori di Ilaria, che parla di capro espiatorio. Perché? Perché tanti sono i buchi neri, i depistaggi, gli appunti, le videocassette mancanti. E per comprendere cosa può essere realmente accaduto, allora oggi facciamo un passo indietro. 16 marzo 1994. Ilaria e Miran vanno a Bosaso, una piccola cittadina nel nord-est della Somalia. Sono lì per intervistare il sultano di Bosaso a proposito della flotta di pescherecci. Di che cosa parlano? Dell'intervista rimangono solo alcuni stralci. Si sospetta che alcune videocassette girate in Somalia siano scomparse. Solo 6 riguardanti la guerra giungono in Italia con i corpi, ormai senza vita, dei 2 giornalisti. Spariscono anche 3 dei 5 taccuini trovati nella stanza della giornalista, compresa la sua macchina fotografica. Ma che cosa era venuta a sapere Ilaria? Ci vengono in aiuto le pagine del diario scritto dal maresciallo Loi, pure lui presente in Somalia con la missione Ibis. Sono andato a trovare Ilaria in albergo. Sta cenando. Mi invita a sedermi con lei e mi racconta le novità. Pare che abbia scoperto che siano in atto traffici di armi che dall'est, passando per l'Italia, attraverso un corrispondente, giungono al nord della Somalia, distribuendosi capillarmente in tutto il paese. Ilaria probabilmente ha scoperto uno dei canali che vengono utilizzati per il traffico delle armi, e che è lo stesso che serve a società di vari paesi, tra cui l'Italia, allo smaltimento di scorie radioattive. Andando lungo le strade dei pozzi, dice, passa per i porti di Bosaso e Merca. Poi, con la complicità dell'imprenditore Giancarlo Marocchino, che fornisce i mezzi per gli scavi, moltissimi fusti di rifiuti tossici vengono interrati. I trasporti, inoltre, avvengono su navi fornite dalla cooperazione italiana, sia per le armi che per i fusti. Ilaria dice di averne le prove. Luciano Scalettari, giornalista di Famiglia Cristiana, si è occupato a lungo dell'omicidio di Ilaria Alpi. Con i colleghi Alberto Chiara e Barbara Carazzolo ha scritto un libro di inchiesta. Lui cerca da tempo una risposta plausibile a quell'omicidio. Elena Seno, che ha collaborato alla stesura di questa puntata di Giallo e Nero, ha chiesto a Luciano Scalettari cosa aveva portato Ilaria a Bosaso e perché tra le poche immagini che restano di quelle girate, cioè da Miran Krovatin, c'è la strada che unisce Garoe a Bosaso. Si può immaginare, supporre, che in quel materiale scomparso ci fossero altri elementi per capire che cosa